Le ragazze con l'impermeabile han qualcosa di imprescindibile, di vibratile, di volubile, di deciso, di quasi nobile. Le ragazze con l'impermeabile han qualcosa di incomprensibile, hanno un passo da donna nubile e uno sguardo piuttosto mobile. Le ragazze con l'impermeabile suggeriscono l'impossibile, sono un rebus quasi insolubile e spariscono in automobile. C'è qualcosa di imperscrutabile, uno sguardo quasi invisibile, un veleno molto solubile che ti blocca e ti lascia immobile. Poi decise con fare ignobile, con un gesto irripetibile, come un rebus quasi insolubile, si sbottonano l'impermeabile. Solo allora, se tu sei abile, con un gesto quasi impalpabile, puoi toccare l'innominabile che nasconde quell'impermeabile. È qualcosa di indescrivibile, più leggero di un dirigibile, un qualcosa di irraggiungibile che rasenta l'incomprensibile. E ti perdi nell'impermeabile, entri dentro l'imponderabile e davanti all'innominabile resti un attimo vulnerabile. Ed allora con gesto abile le ragazze con l'impermeabile si richiudono l'impermeabile e se ne vanno via.